Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dalla Banca Centrale Europea, o meglio dal Fondo Monetario Internazionale, visto che il direttore generale Christine Lagarde dovrebbe, stando a quanto si è capito, lanciare all'Eurogruppo domani un allarme sul rischio di deflazione dell'area euro. L'Eurogruppo è l'unione dei ministri economici e finanziari dell'area euro, oltre che dei capi di governo, e chiederà Christine Lagarde alla Banca Centrale Europea di considerare il quantitative easing. Che cos'è? L'abbiamo spiegato più volte, ma vale la pena ricordarlo. È il modo in cui in America, per esempio, si sono stampati fino a pochi mesi fa 85 miliardi di dollari al mese. Adesso sono scesi intorno a poco meno di 60 miliardi al mese. Come avviene? Avviene emettendo titoli di Stato che vengono comprati dalla banca centrale, nel caso americano la Federal Reserve, nel caso europeo dovrebbe essere la banca centrale europea è l'unica che può farlo. In realtà gli acquisti verrebbero fatti su titoli di Stato dei paesi, quindi non semplicemente con nuove emissioni obbligazionarie, cercheremo di capirlo. Ma il risultato sarebbe lo stesso, cioè si immette il sistema di liquidità, si stampa più moneta, con il doppio effetto: da un lato di cercare di arginare il rischio deflazione, quindi i consumi sono così bassi, in alcuni casi sono così in calo, che i prezzi stessi sono fermi, l'inflazione è allo 0,5% a maggio nell'area euro contro lo 0,7% di aprile in molti paesi e in molte città. Anche in Italia si è tecnicamente in deflazione, quindi in prezzi in calo, perché abbiamo registrato meno 0,1, meno 0,2 su base congiunturale. Ma dicevo, immettendo liquidità, stampando euro sul mercato, a quel punto si immagina, la teoria economica vuole, che ci sia maggior facilità a spendere, a consumare e quindi anche a evitare il rischio deflazione. L'altro effetto dovrebbe essere quello di deprezzare un po' l'euro, nel senso che l'euro oggi è a 1,362, quando si stampa moneta la valuta che rappresenta questa moneta di solito si deprezza. Ora bisogna capire se questo avverrà anche nel caso dell'euro, perché lì abbiamo dall'altra parte gli Stati Uniti che, pur riducendo il loro stampaggio di moneta, come lo chiamiamo noi, continuano a farlo. Di questo parleremo in apertura, perché appunto c'è un intervento importante del Fondo Monetario Internazionale e c'è anche una dichiarazione importante del vicepresidente della Banca Centrale Europea, Victor Constancio, che in un discorso ad Atene ha detto che la Banca Centrale è pronta a varare un programma di acquisto di titoli su larga scala per fronteggiare un eventuale periodo prolungato di bassa inflazione. La borsa come reagisce? In maniera cauta, nel senso che gli indici sono tutti in rialzo, ma non con rialzi pazzeschi. Più 0,70% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,70% Francoforte e più 0,70% sembra quasi uno scherzo anche Londra. L'America perde lo 0,15%. Da noi vanno bene non necessariamente i titoli bancari, perché il miglior titolo è tra quelle maggiore capitalizzazione Finmeccanica più 3,70, Mediolanum più 2,80, Eni più 2,20, A2A più 1,80, Prismian guadagna l'1,60 come Saipem ed Enel, Mediobanca 1,5%, Terna più 1,40. Il migliore dei bancari e Unicredit più 1,1%, ma c'è il caso del Monte dei Paschi di Siena, che perde oggi il 17% a 2,44 euro, e quello della Popolare Emilia Romagna, che perde il 5,5%, praticamente è a 7,60 euro. Yux perde l'1,70, World Duty Free perde l'1%, Mediaset lo 0,70 come Unipol. Sai, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rettifico una cosa: il titolo Monte dei Paschi in questo momento vale 2,44 euro, Chidovenia era il riferimento apertura, quindi siamo appunto a meno 17% in questo momento per il titolo del Monte dei Paschi di Siena. Ne parleremo chiaramente nel corso dei mercati finanziari. Sul Monte dei Paschi ci sono ancora gli effetti dell'aumento di capitale, ma commenteremo anche la Popolare Emilia Romagna. Adesso però rapidamente le altre notizie in breve, fermo restando, visto che citavamo anche i titoli energetici, che ci occuperemo di petrolio, nel senso che nonostante le varie rassicurazioni, il tema c'è tutto, molte delle compagnie petrolifere americane stanno facendo evacuare i loro dipendenti, l'Eni ha detto che per ora manterrà il personale essenziale, le compagnie americane che hanno evacuato dall'Iraq i loro dipendenti in maniera massiccia sono l'ExxonMobil, la British Petroleum invece avrebbe evacuato già il 20% dei suoi, mentre appunto l'Eni ha detto che in questo momento la regione di Bassora, dove c'è il sito del giacimento di Zubair, non è colpita dalle rivolte, ma l'Eni sta mantenendo sul luogo solo il personale essenziale. Dicevo, nonostante le varie rassicurazioni, il tema c'è tutto e le preoccupazioni anche. Adesso però le altre notizie in breve. Infatti resta intorno ai $105-106 al barile. Per quello che riguarda le stime dell'AIE, nei prossimi 5 anni il 60% della nuova capacità produttiva dei paesi dell'OPEC sarebbe dovuto arrivare proprio dall'Iraq. Ecco perché dico, non ci sono tensioni fortissime adesso, però se uno va a vedere le prospettive diffuse dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, la stragrande maggioranza dell'aumento della produzione di petrolio dei paesi OPEC, che da soli rappresentano il 60% della produzione a livello mondiale, sarebbe dovuto arrivare proprio dall'Iraq. Nel sottosuolo iracheno si trovano infatti riserve pari a 141 miliardi di barili di greggio e il paese oggi produce circa 3 milioni e 600 mila barili al giorno. Il governo di Baghdad puntava ad arrivare nel 2018 a una capacità superiore agli 8 milioni di barili. Mi sembra che adesso punti in primo luogo ad arrivare a fine anno, vista la situazione che si sta creando e che si è già creata nel paese. L'avanzata dei guerriglieri estremisti dell'ISIL non si ferma, sono a circa 200 chilometri da Baghdad. Anche se oggi il governo ha annunciato di aver ripreso il controllo delle raffinerie di Baiji, 200 km a nord di Baghdad. La Casa Bianca, come i nostri GR24 vi hanno già raccontato, ha escluso comunque, l'unica opzione che ha escluso è quella delle truppe sul campo, tutto il resto resta invece al vaglio della Casa Bianca e del presidente Obama. Restiamo sull'economia internazionale perché l'Argentina oggi ha annunciato che tratterà con gli hedge fund dopo la decisione della Corte Suprema Americana che ha confermato la sentenza che impone all'Argentina di pagare anche coloro che non hanno accettato l'accordo di ristrutturazione del debito dopo il crack del 2001. L'Argentina vuole pagare il proprio debito ma non andrà a New York a trattare con gli hedge fund, ha detto a un certo momento il capo di gabinetto Jorge Capitanich, contrapponendosi a uno dei legali dell'Argentina che invece aveva parlato di una missione a New York. Quindi il caos resta abbastanza alto dalle parti di Buenos Aires, però l'ipotesi avanzata dal ministro dell'economia argentino, secondo il giudice della Corte federale americano Thomas Grisav, andrebbe a violare le indicazioni della giustizia americana. Una confusione generale anche perché le intenzioni del governo argentino renderebbero i bond di diritto argentino e non più di diritto americano. Le conseguenze della decisione della Corte di Giustizia americana sono abbastanza paradossali perché a questo punto la cedola di fine giugno prevista per tutti i titoli ristrutturati, cioè i titoli di chi ha accettato l'accordo di perdere buona parte del capitale ma di riaverne intorno al 60-50-70%. Dicevo che la cedola di fine giugno prevista per i titoli ristrutturati dopo il default del 2001 rischia di non essere pagata, lo ha ammesso questa mattina lo stesso governo argentino. Dei 450.000 risparmiatori italiani coinvolti nel crack argentino, 400.000 hanno aderito alle ristrutturazioni, quindi all'offerta di avere meno ma avere almeno qualcosa, diciamo così, quelle del 2005, quelle del 2010, e altri 50.000 risparmiatori italiani invece hanno in portafoglio i vecchi titoli. Ma l'economista italo-americano Vito Tanzi, già consulente della Banca Mondiale dell'ONU e tra l'altro fino al 2000 era direttore del Dipartimento di Finanza Pubblica del Fondo Monetario Internazionale, ha condotto alcune trattative con Buenos Aires, ci ha spiegato perché il mancato pagamento potrebbe avvenire indipendentemente anche dalla volontà del governo argentino. Per la fine del mese, la fine di giugno, il governo argentino dovrebbe fare i pagamenti a quelli che si erano messi d'accordo con l'Argentina sulla riduzione del pagamento, quelli che avevano accettato la proposta dell'Argentina. Ma questi pagamenti vengono fatti attraverso le banche di New York e la decisione di questo giudice di New York potrebbe dare il potere a questo hedge fund di attaccare questi pagamenti quando vengono messi nelle banche di New York, prima che gli altri vengano pagati, di prendere i soldi e quindi di impedire il pagamento a quelli che si erano messi d'accordo con l'Argentina. Quindi questo è il pericolo, siccome la fine del mese è soltanto pochi giorni, fra pochi giorni, quindi la probabilità che qualche cosa del genere possa succedere esiste ed è molto, che anche con la buona intenzione dell'Argentina, che l'Argentina manda i soldi, le banche di New York devono seguire l'ordine del giudice perché sono parte della giurisdizione degli Stati Uniti, quindi ovviamente prima che questi soldi raggiungano gli italiani o non so, gli altri che si sono messi d'accordo con l'Argentina, questi soldi vengono trattenuti. Bloccati. L'altro problema interessante è che apparentemente ci sono dei dubbi se veramente l'Argentina non ha abbastanza soldi da fare il pagamento, e siccome l'Argentina si è rifiutata di dare informazione specifica di quanti soldi sono effettivamente controllati dal governo argentino, e soldi che possono già esistere in varie banche americane, quindi anche questo crea delle difficoltà. Infatti alcuni interpretano la decisione del giudice come uno strumento per costringere l'Argentina a dare informazione più precisa di quanti soldi effettivamente hanno a disposizione. E dalla vicenda argentina, che riguarda comunque anche i risparmiatori italiani, passiamo all'Italia direttamente. Allora, un altro studio oggi del rapporto Club Consumo di Prometeia stima che dopo 6 anni di discesa dei consumi in Italia torneranno nel 2014, quindi quest'anno, a crescere dello 0,5%, spinti dal bonus degli famosi 80 euro decisi dal governo, maggiori spese per circa 5 miliardi di euro. E sempre sull'Italia, già veniva annunciato dal nostro GR24, oggi il presidente degli industriali Squinzi ha annunciato la riforma di Confindustria, giorno storico ha definito, e a questo proposito ha detto anche al governo e alla classe politica: fate anche voi le vostre riforme, altrimenti il paese non vi crederà più. L'assemblea straordinaria di Confindustria infatti ha approvato oggi il nuovo statuto che rende operative le linee guida della riforma, quella approvata diciamo lo scorso ottobre. Giorno storico, si cerca infatti di rendere più efficiente, con meno sovrapposizioni e quindi anche più efficace, la struttura di Confindustria. Sentiamo questo passaggio del presidente Squinzi. Circa 2 ore fa noi abbiamo approvato il nuovo statuto, il regolamento attuativo e il nuovo codice etico di Confindustria, risultato del lavoro della Commissione Pesenti, che negli ultimi 15 mesi ha ridisegnato il futuro di Confindustria. Ecco, noi saremo estremamente, come ho già avuto occasione di dichiarare, saremo estremamente rigorosi nell'applicazione, in modo particolare nel codice etico. Quindi quello che è successo sicuramente non dovrà trovare il coinvolgimento, l'acquiescenza di imprese che aderiscono al nostro sistema, e su questo punto saremo estremamente duri. Così appunto il presidente di Confindustria Squinzi. Tra l'altro oggi, sempre in tema di imprese italiane, la Fiat, da quello che citano le agenzie, non ricorrerà più alle prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro in tutti gli stabilimenti italiani, quindi non ci saranno più straordinari. Sospesi 500 trasferimenti da Mirafiori a Maserati Grugliasco. E sempre per quello che riguarda invece l'Italia, oggi il presidente della Ferrari è tornato a smentire l'ipotesi di poter diventare presidente dell'Alitalia. Ha detto: l'ipotesi non esiste, sono impegnatissimo in Ferrari. E adesso iniziamo col primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Arriverà la Banca Centrale Europea a stampare moneta? Così sembrerebbe, a giudicare non solo l'invito che dovrebbe fare all'Eurogruppo, il vertice dei ministri economico-finanziari e anche dei presidenti di governo dell'area euro domani, il direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde ha detto: sono pronta a chiedere alla BCE l'acquisto di titoli di Stato, ma anche a giudicare dalle parole del vicepresidente della BCE stessa, Victor Constanzio, che ha detto: la BCE è pronta a varare un programma di acquisto titoli su larga scala per fronteggiare un eventuale periodo prolungato di bassa inflazione. Lo stesso Constanzio poi ha continuato, ha detto: la forza dell'euro, l'euro forte, ha contribuito moltissimo ad abbassare l'inflazione, ma aggiungendo che in questo momento sta anche contribuendo alla spirale deflattiva che c'è. Ha ricordato Constanzio che tra luglio 2012 e il maggio 2014 la moneta unica è salita da un minimo di 1,20 dollari a oltre 1,40, comportando così una diminuzione di mezzo punto percentuale del tasso di inflazione. Nel frattempo il vice direttore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, stima che il nuovo pacchetto di misure annunciato dalla Banca Centrale Europea, a partire dai famosi 400 miliardi che è pronta a prestare alle banche a patto che le banche a tassi agevolati li utilizzino solo ed esclusivamente per le imprese, per le famiglie, ma non per i mutui per la casa, le famiglie. Dicevo, il vice direttore generale della Banca d'Italia, Fabio Panetta, stima che queste misure, assieme anche ad altre, avranno un effetto di mezzo punto percentuale di crescita del PIL italiano nei prossimi 3 anni. Però, diciamo, sullo sfondo è chiaro che il tentativo è quello di ridurre il rischio deflazione. Ne vorrei ragionare con il professor Franco Bruni, che insegna economia internazionale all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. La sentiamo un po' bassa, chiedo di alzare i livelli, per favore, visto che siamo in diretta da Roma e su Milano. Allora, professore, se ben ricordo, perché va anche spiegata, a mio avviso, la cosa, una banca centrale si mette a stampare moneta, in questo caso la BCE acquisterebbe debito dei paesi e nell'acquistarlo, io lo dico in maniera un po' semplicistica, stampa moneta, perché più moneta c'è in giro, più liquidità c'è in giro, più uno dovrebbe spendere, o meglio si presume che in questo modo si torni a spendere un po' di più e quindi di conseguenza i prezzi, invece che calare o restare fermi, crescono un po' di più, magari fino a quel 2% di inflazione che è considerato ottimale. Però ricordo anche che in economia c'è un vecchio detto, adesso rideranno alcuni dei tecnici a Milano perché è una frase che usavo spesso una volta, e cioè che se il cavallo non vuole bere, per quanta acqua tu gli possa dare, questo non beve. Allora c'è il rischio che la misura possa sostanzialmente sterilizzarsi? Ma dunque, innanzitutto vorrei chiarire che questa espressione stampare moneta si applica a tutte le attività che la Banca Centrale Europea normalmente fa per fornire liquidità al sistema. La Banca certo. Centrale presta, per esempio, enormi quantità di liquidità alle banche e per far questo, fra virgolette, stampa moneta. Quindi smettiamo di dire che la Banca Centrale Europea non stampa moneta, è uno dei suoi mestieri principali, lo fa regolarmente, è autorizzata a farlo. Un'altra cosa è farlo attraverso un acquisto molto ampio di titoli di Stato che in Europa non è ancora successo, cioè l'abbiamo fatto una volta nei confronti dell'Italia, un po' con la Grecia, con la Spagna, un pochino con l'Iran, però poi abbiamo visto che sostanzialmente questo non faceva altro che incentivare i governi a non fare le riforme. Allora abbiamo smesso, abbiamo cambiato completamente approccio e ecco, io credo che l'ultima misura varata dalla BCE che promette di, come dice lei, stampare moneta per prestarla poi alle imprese sia quello che occorre per cercare di rilanciare questo canale di trasmissione della politica monetaria che non riesce ad arrivare ad irrorare l'economia reale. Quindi questo... infatti i messaggi che stanno arrivando, professor Bruni, riguardano soprattutto il motivo per cui insomma uno stampa moneta, ma a chi va questa moneta, chiedono molti ascoltatori, no? A chi arriverà questa moneta, perché noi sappiamo che nella cinghia di trasmissione in questi anni si è bloccato qualcosa, poi le banche giustamente dicono che devono ricapitalizzare e la BCE ha affrontato questo tema con grande precisione, a differenza della Fed, della Banca del Giappone, che buttano la moneta dalla finestra e non si sa dove vanno a finire. L'unica cosa che succede in questi paesi è che si abbassa un po' il cambio, però se lo facciamo anche noi si abbassa anche il nostro, si abbassano tutti e ricominciamo la gara a abbassarlo ancora, cioè non cambia niente. La BCE mi sembra invece che stia mirando con grande precisione al problema, che è quello di finanziare le imprese e quelle anche buone, cioè per esempio non quelle speculative che fanno speculazioni immobiliari, perché non è facile che questa cosa abbia successo come si vorrebbe. Ci sono una serie di questioni tecniche che ancora si stanno chiarendo. La Banca Centrale dovrà chiedere alle banche una vera e propria documentazione per essere sicuri che questo primo 400 certo. miliardi diciamo vadano veramente alle imprese, ma questo è quello che stiamo aspettando. Non vedo perché la signora Lagarde vada in giro a dare le ricette. Oltretutto è controproducente, lo sappiamo, perché a Draghi dire queste cose vuol dire diminuire la probabilità che le faccia. Quindi abbiamo visto un Draghi molto piccato l'ultima volta, proprio dicendo grazie signora Lagarde per i consigli che ci dà, li dia a tutti, non solo a noi, che è un modo molto garbato per dire un'altra cosa, ma non possiamo, vista l'ora. Allora, però resta un tema di fondo. Lei, professor Bruni, ha spiegato molto bene che la Banca Centrale Europea è stata anche più attenta, più precisa nell'indicare dove devono andare questi soldi rispetto alla Banca del Giappone o alla Federal Reserve, che invece hanno immesso liquidità e basta. Però la domanda di fondo resta, e cioè al di là di quello che riusciranno a fare le banche, che non devono prestare soldi a chi fa attività speculative, ma lo dico, nemmeno prestare soldi a chi gli chiede solo per pagare spese correnti, stipendi, cioè gli investimenti devono essere fatti nel medio e lungo termine, non per un'assenza di liquidità a breve. Il tema della deflazione può essere contenuto e quindi arginato attraverso questa misura, perché uno potrebbe anche dire, ho capito, tu puoi anche inondare il mercato di euro, ma se io non ho prospettive di fiducia, la disoccupazione resta alta e colpisce ogni famiglia in Francia, in Spagna, in Italia, io non spendo comunque, per quanto diciamo accessibile sia la moneta che tu stampi. Certo, l'economia prende, quindi anche i prezzi non riprendono fino a che l'economia reale non si mette a posto, e questo lo si può fare solo con riforme strutturali, politiche fiscali molto mirate anche quelle, spostamento di imposte dalle imprese ai patrimoni, insomma migliori tipi di spesa pubblica, quindi sono tutte quelle famose riforme strutturali che la Banca Centrale non può fare. La Banca Centrale non ha la bacchetta magica per risolvere i problemi dell'economia. Oltretutto dobbiamo stare attenti a questa deflazione, perché non è che poi sia ancora terribile, no. È per adesso un rallentamento che in parte può essere dovuto a fenomeni anche positivi, cioè recupero di competitività di certe imprese che avevano alzato troppo i costi dei prezzi in passato. Inoltre ci sono le materie prime che sono state abbastanza basse e così via, quindi i prodotti alimentari. Quindi è quello che è giusto che la Banca Centrale dica, è state attenti che se per caso dovesse esserci un vero e proprio problema di deflazione molto seria, come in fondo c'è stata in Giappone a un certo punto, beh, allora noi abbiamo pronte qualunque tipo di armi, cioè non abbiamo scrupoli a considerare altri tipi di intervento. Questo è un annuncio che va bene che facciano, però a me non sembra che sia né probabile né probabilmente di successo, perché come dice lei poi alla fine questa moneta può andare a finire Io ho scritto un libro che si chiama L'acqua e la spugna, per dire che è voglia di buttare acqua, ma l'acqua va a finire nella spugna, e la spugna vuol dire che la gente tesaurizza questa moneta. Sì. Sono un sacco di imprese che sono molto liquide, hanno il conto in banca molto grosso, ma non fanno gli investimenti, per esempio. Ma sì, un sacco noi non ne vediamo, però ci fidiamo di lei. No, ma questo è innegabile, anche perché qua rischiamo, se non correttamente guidato, questa emissione, questo stampaggio di moneta, come lo chiamo io, rischiamo poi nuove bolle, nel senso che se uno non si fida, cioè basta che non riparta il mercato immobiliare, questo voglio dire, o peggio ancora un mercato azionario di titoli speculativi, perché sappiamo che poi la liquidità, quando non sa dove andare, inizia a creare bolle in alcuni settori, professore. Le bolle ci sono già, per esempio, in alcuni paesi. In Inghilterra c'è, perché la Banca d'Inghilterra ha già annunciato che alzerà i tassi prima del previsto. Questo rende un po' meno probabile che noi continuiamo nell'espansione senza aspettare che succeda qualcosa di reale alla nostra economia, perché se... Quindi ho l'impressione che attendersi dalla banca centrale il miracolo di far uscire l'economia dalla crisi è molto difficile. Anche se le condizioni che può porre la banca centrale, mi sembra che Draghi le stia ponendo tutte, nel senso che obiettivamente dopo quest'ultima operazione non so ancora cosa possa fare. Lì deve intervenire l'Europa. Oggi ho visto una dichiarazione del commissario degli affari economici Olli Rehn, che ha detto la disciplina di bilancio già contiene molta flessibilità, ma se lo dice lui, noi tutta questa flessibilità non la vediamo. E Schäuble invece, il falco tedesco, ministro delle finanze, ha detto non esistono divergenze nel governo tedesco sul patto di stabilità, esistono invece divergenze all'interno, diciamo, dei partiti, forse, visto che recentemente Sigmar Gabriel aveva proposto di dare più tempo per le riforme ai paesi del sud, Schäuble l'ha bacchettato, ha detto non è sensato costruire delle divergenze sui media. Ho capito, però se ne può parlare oppure no, chiediamo al mitico Schäuble. Grazie intanto al professor Franco Bruni. Meteo, pubblicità, poi la borsa, chiusura più 0,85% per Milano, Monte dei Paschi meno 14,57%, ultimo prezzo 2,08 euro. Sette e 42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti di voi chiedono ancora che cosa può fare la Banca Centrale Europea. Secondo me l'analisi del professore, dell'economista Bruni, era abbastanza chiara. Mario Draghi, non dico che stia esaurendo, però insomma gli strumenti a disposizione li ha messi in pratica tutti. Poi a quel punto tocca alla politica, intesa come politica nazionale, sulle riforme per rendere più competitivi i paesi che queste riforme non hanno fatto, l'Italia ma anche e soprattutto la Francia, e tocca anche a Bruxelles, nel senso che se si vuole iniziare a utilizzare diversi parametri per distinguere tra deficit cattivo e deficit buono, beh, forse meglio tardi che mai, nel senso che in questo momento tutto entra nel deficit, sia che tu costruisca un ponte, sia che tu sprechi soldi per consulenze, sagre o quant'altro. Allora, iniziare a distinguere tra investimenti infrastrutturali, che vogliono dire anche quelli di carattere digitale e che rendono più competitivo un paese e quindi l'area euro nel suo complesso, tra invece spese correnti per il cattivo funzionamento magari della pubblica amministrazione o per elementi di corruzione o quant'altro. Ecco, tuttora non si riesce a distinguere, il deficit è uno e uno solo, ma la vita non è fatta esattamente così, Abbiamo detto più volte, qualunque imprenditore conosce la differenza o manager tra investire e spendere dei soldi anche a debito per comprare un macchinario o creare una struttura, una rete commerciale, o invece, non so, abbellire l'ufficio della segretaria. Nel primo caso è un investimento, nel secondo è un costo e basta. Per alcuni, l'abbiamo già detto, può essere un investimento anche il secondo. Comunque la borsa più 0,85% Milano, più 0,70% Francoforte, più 0,70% anche Parigi, il caso di Milano e Londra che fa più 0,40%. l'America perde lo 0,20%, euro a quota 1,36. Il caso di borsa di oggi si chiama in primo luogo Monte dei Paschi, meno 14,60%, ma anche Popolare Emilia Romagna, meno 4,20%. Chiara Di Cristoforo, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Monte dei Paschi e Pop Emilia Romagna. Allora, ancora Monte dei Paschi di Siena, siamo nella nona seduta di esercizio dell'aumento di capitale da 5 miliardi di euro. C'è tempo solo fino a domani per negoziare i diritti, mentre le azioni di nuova emissione potranno essere comprate fino al prossimo venerdì 27 giugno. Questi andamenti non sono anomali, visto il tipo di ricapitalizzazione che è iperdilutiva. Abbiamo visto rialzi ben maggiori, il titolo è arrivato a guadagnare il 40% da quando è partito l'aumento, quindi insomma sono movimenti proprio legati al tecnicismo dell'aumento di capitale. Per quanto riguarda la Popolare Emilia Romagna, lì l'aumento partirà lunedì, un aumento da 750 milioni, e c'è un po' di tensione perché non si sanno ancora i dettagli, cioè a quanto parte, qual è il prezzo teorico, si chiama il TERP, il prezzo teorico al netto del diritto. Di fatto insomma, gli ultimi aumenti di capitale sono stati fatti con uno sconto intorno al 30%, qui si parla di un prezzo diverso, di uno sconto inferiore, quindi c'è un po' di tensione, ma la notizia dovrebbe arrivare a breve, comunque attesa oggi a borsa chiusa, con la tensione il titolo è sceso. Allora, altri titoli, questa volta però in positivo, mi riferisco a Finmeccanica più 3,90%, e qui ci sono notizie oggettive, Mediolanum più 3,12%, bene anche Eni più 2,56%. Allora, Finmeccanica, Mediolanum ed Eni. Sì, partiamo da Finmeccanica, viene da un periodo di calma, nel senso che era salita molto venerdì scorso, poi era scesa inizio settimana, oggi è recuperato. Qui la notizia è arrivata ieri sera, cioè è arrivata una precisazione da parte del gruppo che ha detto che Ansaldo Breda non farà parte del riassetto delle società operative, quindi non sarà oggetto di una fusione, e questo piace al mercato, cioè Ansaldo Breda sarà, come dire, trattata a parte. Mentre le altre, secondo le indiscrezioni, perché il nuovo amministratore delegato Moretti non ha ancora presentato il nuovo piano, le nuove strategie, si potrebbe parlare anche di una vendita per Ansaldo Breda, mentre per le altre società andranno probabilmente sotto la capogruppo Finmeccanica SPA. Includere Ansaldo Breda significava ridurne la visibilità, questo non sarebbe piaciuto al mercato, che invece ha apprezzato questa precisazione. Per quanto riguarda Mediolanum invece sta risalendo dopo forti cali recenti, Eni ha beneficiato di un buon andamento del settore petrolifero in generale, oggi ha detto che non ci sono problemi in Iraq, ha confermato la presenza del personale sul posto e ha anche detto che il giacimento che hanno in Alaska, che l'Eni ha in Alaska, ha raggiunto il traguardo di produzione di 25.000 barili di olio al giorno, è il primo in quella zona e il risultato era atteso importante. E questo giustifica anche il rialzo. Devo dire, in rialzo oggi tutti gli energetici, Prysmian più 2, che non è energetico, Elex Pirelli Cavi comunque più 2%, Enel più 2, A2A più 1,90%, Saipem più 1,70%. Tu già accennavi al fatto che comunque oggi i titoli petroliferi, sulla scia delle tensioni in Iraq, a cui facevamo riferimento all'inizio, si sono mossi tutti al rialzo. Di nuovo in diretta, dicevamo bene, oggi gli energetici, interessanti anche i movimenti su Mediaset, che comunque ha chiuso in calo dell'1,22%, Chiara? Sì, Mediaset aveva aperto molto bene stamattina, poi hanno prevalso le prese di beneficio. Qui ci sono vari fattori. Innanzitutto nel weekend si potrebbero avere novità sulla questione della TV digitale spagnola. Qui è Mediaset che deve prendere posizione e dire se accetterà o meno l'offerta ricevuta. E poi lunedì ci sarà l'esito della gara sui diritti TV di Serie A, anche quello fondamentale per la società. È interessante che a Madrid la controllata Mediaset Spagna oggi ha perso il 3%, perché per la nazionale spagnola ha perso i mondiali. Questo avrà effetti negativi sugli ascolti e sulla raccolta pubblicitaria di Telecinco, che trasmette le partite in Spagna. Ancora tra i titoli segnaliamo bene Unicredit tra i bancari più ne 30%, Terna più ne 20%, Campari più ne 1%, Autogrill più 0,80% e anche tornando agli energetici Enel Green Power più 0,70%. Tra chi ha perso invece, oltre ai titoli citati, anche il Banco Popolare meno 1,40, Iux meno 1,30, Mediaset meno 1,20, World Duty Free meno 1%, Unipolsai meno 0,80%. Grazie a Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi, prima di arrivare al tema del petrolio, restiamo sul tema degli investimenti italiani all'estero. Continuiamo a raccontare in questi mesi che l'unica, poca anche, parte di ripresa economica in Italia arriva dall'export. Due giorni fa abbiamo commentato un ottimo dato perché nella crescita dell'export si era risvegliata per la prima volta da mesi anche l'Europa, più 5% l'export italiano verso l'Europa, in particolar modo molto bene verso la Germania, verso la Spagna e verso la Gran Bretagna, benissimo anche verso il Giappone e verso la Cina, più ferma sulla Russia, ma lì c'è stato un crollo del potere d'acquisto dovuto anche alla crisi ucraina. E allora oggi c'è stata l'assemblea annuale della Siemens, che è la società controllata per due terzi dalla Cassa Depositi e Prestiti, che assiste le imprese italiane negli investimenti esteri. Sono due le società importanti partecipate in maggioranza dallo Stato, dalla Cassa Depositi e Prestiti, che aiutano le imprese italiane all'estero, o dovrebbero aiutarle. La SACE come garanzia e assicurazione sui rischi di mancato pagamento o di crediti che non ritornano, da un lato, e la Siemens, che invece può acquisire partecipazioni dirette o attraverso un fondo rotativo nelle imprese che aiuta, finanzia gli studi di fattibilità, consulenze, programmi di inserimento nei mercati esteri. Bilancio 2013 si è chiuso con 47 milioni di euro di ricavi e un utile netto di 13 milioni di euro, è il miglior andamento da quando esiste la Siemens. Ringrazio l'ingegner Massimo D'Aiuto per averci raggiunto in collegamento, buonasera. Buonasera Brisoni. Che di Siemens è amministratore delegato. Allora, le aree tradizionali in cui continuerete a essere attive e quelle nuove dove vi sposterete? Le aree tradizionali sono i paesi oramai emersi, più che emergenti, come Cina, India, molto bene il Brasile e anche nella Russia abbiamo operato bene e speriamo di poter operare anche in futuro. Naturalmente noi abbiamo incrementato le attività negli ultimi due anni anche molto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dove le opportunità che vengono fuori dallo sviluppo del manifatturiero che sta facendo con la politica Obama hanno creato spazi per aziende come le nostre, che sono aziende eccellenti in tanti settori, prima di tutto meccanica, elettromeccanica. E poi, ultimo non ultimo, abbiamo sviluppato negli ultimi due anni e fortemente nel 2013 le attività a favore del rafforzamento delle imprese sia in Italia, quelle che esportano, si internazionalizzano, ma anche quelle che fanno acquisizioni di controllo nella vecchia Europa, che è un fatto importantissimo. Le aziende diventano in questo modo più grandi acquisendo quote di mercato anche in Europa oltre che negli Stati Uniti e in questo modo più che prede possono essere predatori e questo ci fa molto piacere. Ecco, su questo, tra l'altro, voi avete circa 7.000 imprese che avete aiutato. Quante di queste sono piccole e medie imprese? Sono per circa il 65%, quasi due terzi sono PMI. Ci sono anche grandi imprese, ricordiamo che le grandi imprese non sono solo quelle notissime, ma sono tante imprese che sono classificate grandi, che in realtà quando le andiamo a confrontare con i competitors internazionali non sono poi così grandi e quindi apriamo i mercati a tutti, anche alle grandi imprese, ma il grosso dell'attività è sicuramente rivolto alle PMI. Resti con noi perché adesso c'è il GR24, poi visto che affrontiamo il tema anche delle tensioni sul petrolio, dei rischi di quello che sta capitando, i rischi chiaramente e purtroppo sono intanto l'orrore umano a cui abbiamo assistito in questi giorni, c'è anche la componente energetica, visto che, come ricordavamo prima, le previsioni dell'AIE stimavano in un 60% la quota di aumento della produzione dei paesi OPEC derivante dal petrolio iracheno. Qui mi sembra che sarà già un miracolo mettere in sicurezza gli impianti, e questo mi porterà a ragionare con lei dopo su quanto vi ha colto di sorpresa quello che è successo in Iraq. E 9 minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Stavo concludendo il commento, visto che oggi ha pubblicato il bilancio la Simest, e quindi la società partecipata per 2/3 della Cassa Depositi e Prestiti, che assiste le imprese italiane quando vanno a internazionalizzare, può acquisire partecipazioni dirette e poi aiuta, finanza gli studi di fattibilità, la consulenza, i programmi di inserimento dei mercati. Bilancio che si è chiuso con un utile di 13.300.000 euro, che è il migliore della sua storia. Ci stava raccontando l'amministratore delegato, l'ingegnere Massimo D'Aiuto, delle aree, dei settori, ma anche del fatto che 2/3 delle 7.000 aziende che avete aiutato sono piccole e medie imprese. Lei stava spiegando come, oltre a essere attivi nelle aree tradizionali, BRIC, NAFTA e i Balcani occidentali, c'è molto interesse anche per il sud-est asiatico e alcuni paesi dell'Africa subsahariana. Però quanto sorpresi siete rimasti da quello che è accaduto e sta accadendo, ahimè, in Iraq? Beh, questa è una sorpresa, ma anche una non sorpresa, perché voglio dire, sicuramente un paese come l'Iraq stava vivendo una situazione di apparente equilibrio, perché chi c'è stato come noi più volte l'ha toccato con mano che cosa ha significato in questi ultimi anni stare a Baghdad o anche in altre città. Sicuramente non ci fa piacere come cittadini e sicuramente ancor più come operatori. Siamo confidenti che la comunità internazionale sappia trovare un modo migliore per aiutare questo paese oramai che è da anni in una situazione dilaniata. Sì, ci sono altre aree geografiche in cui voi invitereste alla prudenza, per essere eufemistici? Beh, sicuramente ci sono dei paesi dove è difficile operare, certo non è la situazione dell'Iraq, però tanti paesi presentano dei rischi, ecco, andiamo più su un discorso che può apparire tecnico, però ci sono dei paesi che hanno dei rischi. Il nostro lavoro non è solo valutare un mercato, un progetto, ma anche capire come si evolvono questi paesi per mettere un investitore, che poi un'impresa, noi la affianchiamo, come sapete, nelle condizioni di traguardarsi a un successo senza avere sorprese troppo forti. Certo, la situazione attuale, per esempio, che riguarda la Russia, anche questa insomma speriamo che vada a convergere positivamente, perché la Russia è per noi non solo un grande mercato, ma anche un partner, come sappiamo, di grossissimo rilievo, non solo per il settore energetico, ma per la capacità che possono avere le nostre aziende di produrre e manifatturare per questo grande mercato, per questo grande paese. E quindi queste sono delle attenzioni che abbiamo. Sicuramente con l'Ucraina l'abbiamo avuta da tempo, noi è parecchio che non investiamo in Ucraina, quindi siamo stati molto prudenti e forse in questo siamo stati premiati. Ci sono poi altri paesi dove ci sono dei rischi, ma sono rischi che possono essere opportunamente affrontati. Mi riferisco a diversi paesi dell'Africa subsahariana che nel giro dei prossimi 10 anni saranno le nuove star di consumi, di PIL, e quindi non bisogna trascurarle. Dobbiamo, anche questo è lo sforzo come nuove aree, cercare il modo migliore per affiancare non solo le esportazioni ma anche gli investimenti nostri in questi paesi. Ovviamente sono molto diversificati. Faccio l'esempio, in Mozambico solo 7-8 anni fa era assolutamente trascurato dalla maggior parte degli investitori. Noi abbiamo spinto molti ad avere un'attenzione a questo paese e ne abbiamo avuto ragione. Peraltro ce ne sono altri che si affacciano sullo scenario, mi riferisco sicuramente all'Angola, anche la stessa Tanzania. Insomma, bisogna trovare il modo di essere presenti in questo paese, che saranno le nuove star, ripeto, fra 10 anni. Beh, c'è molta attesa per l'Africa cosiddetta subsahariana. Devo dire che anche noi abbiamo commentato, l'ha fatto il nostro Vincenzo Meglietta assieme alla delegazione del governo, delle imprese italiane in Mozambico recentemente, 3 settimane fa. Grande attesa, ripeto, per tutta l'Africa subsahariana, ma il ragionamento che vale per l'Africa subsahariana e per gli altri paesi è sempre il solito. Ormai è chiaro a tutti che per essere in quei mercati, che non sono mercati di produzione, sono mercati di consumo, ormai devi esserci anche con la tua produzione. Non basta produrre in Italia e vendere lì, occorre presidiare e avere anche visibilità andando a produrre per quei mercati in loco, altrimenti si corre il rischio di fare gli errori commessi nel passato, in cui pensavamo che bastasse arrivare in quei mercati con la merce e collocarla solo perché eravamo italiani. Grazie all'ingegnere Massimo D'Aiuto, mi sono legato alla Siemens. Noi restiamo sul tema internazionale, ma per capire quali tensioni potrebbero arrivare sul petrolio da quello che sta capitando in Iraq. Facciamo nel giorno in cui alcune delle principali compagnie petrolifere occidentali in Iraq hanno dato l'ordine di evacuare gran parte del proprio personale in Iraq. Praticamente abbiamo già notizie dello staff dell'ExxonMobil, mentre anche British Petroleum avrebbe già evacuato il 20% dei suoi dipendenti in Iraq. L'ENI ha fatto sapere di operare comunque in una regione, quella di Bassora, dove al giacimento di Zubair, che non è coinvolta dalle rivolte, anche se l'ENI ha poi aggiunto che sta tenendo sul luogo solo il personale essenziale. Il governo iracheno ha fatto sapere di aver ripreso il controllo del complesso di raffinerie di Baiji, a 200 km a nord di Baghdad, attaccato nei giorni scorsi dagli jihadisti dello Stato Islamico dell'Iraq, insomma l'ISIS. Lo ha affermato oggi il portavoce per la sicurezza del primo ministro Nouri al-Maliki. Però il tema resta tutto, perché come ricordavamo in apertura, l'AIE, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, stimava che il 60% della nuova capacità produttiva dei paesi OPEC, che da soli rappresentano il 60% di tutto il petrolio al mondo, dicevo, il 60% di questa nuova capacità sarebbe dovuta arrivare dall'Iraq. Ora, in Iraq si trovano riserve per 141 miliardi di barili di greggio, ma il paese produce oggi 3 milioni e 600 mila barili al giorno. Il governo di Baghdad voleva arrivare nel 2018 a produrre più di 8 milioni di barili, mi sembra assolutamente non questo il problema. Ma vorrei ragionarne con, da un lato, Davide Tabarelli, nostro ospite più volte, grande esperto di energia e presidente di Nomisma Energia. Buonasera Tabarelli. Grazie, buonasera. La sentiamo molto basso oggi, a tutti i volumi bassi. E grazie anche a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Minuti, nel frattempo due notizie che riguardano proprio l'Iraq. Il presidente francese Hollande ha convocato il Consiglio di sicurezza e difesa francese, mentre l'Iraq, dall'Iraq, il governo iracheno, quello di appunto di al-Maliki, ha richiamato alle armi i riservisti, quindi la situazione si sta tutt'altro che semplificando. Comunque, Sissi Bellomo, tu scrivi regolarmente su Sole 24 Ore di prezzi del petrolio. Noi una tensione forte sui prezzi non l'abbiamo vista, per carità, è a 106, vicino a 107. Questo perché, diciamo, l'impatto è ancora molto limitato, oppure, diciamo, è una prudenza preventiva e poi rischiamo di avere tensioni nei prossimi giorni? una certa tensione negli ultimi giorni si è creata, hai ragione, non particolarmente forte come questa situazione in Iraq farebbe pensare. 106-107 è il WTI, il riferimento americano, il Brent proprio oggi sta sfiorando $115 in realtà, che è un massimo da 9 mesi, e i massimi da 9 mesi anche il WTI comunque. La tensione c'è, non è fortissima, potrebbe essere superiore nei prossimi mesi. Uno dei motivi per cui forse la reazione è un po' meno forte di come ci si aspetterebbe è che negli Stati Uniti c'è una grandissima abbondanza di petrolio, come sappiamo, grazie allo shale oil, alle tecniche di fracking. Per cui diciamo non c'è stato l'impatto, è vero che 106, io citavo il WTI, $106-107 non sono ancora una cosa drammatica, anche se resta stabilmente sopra i $100. Vorrei capire da Tabarelli se è d'accordo, cioè se in questo momento l'Iraq sia un problema scusatemi, di carattere in primo luogo umanitario, anche di carattere militare, ma non ancora di carattere energetico. Non lo è di carattere energetico, non è nell'immediato, anche se i prezzi comunque sono saliti di $5-6, sono dei massimi da 6 mesi. Nel medio termine la situazione è molto preoccupante, perché noi avevamo bisogno nei prossimi anni di qualcosa come 4-5 milioni di barili al giorno di greggio in più, la gran parte deve venire, come ha ricordato lei, dall'Iraq. L'Iraq è il posto al mondo dove ci sono più riserve a basso costo, il costo nessuno si azzarda a dirlo, mi azzardo io, ma roba inferiore ai $5 per barile, ricordiamolo ancora, 113 è il Brent oggi, e è lì che si sperava che dopo il 2003 la liberazione dell'Iraq si potesse avere accesso finalmente a questo enorme tesoro che sono gli idrocarburi del Medio Oriente, il gas dell'Iran, il petrolio dell'Arabia Saudita, il Kuwait, che stanno producendo al massimo loro certamente, ma soprattutto l'Iraq. Quello che sta accadendo ci allontana notevolmente da questa situazione. Ecco, le vostre previsioni, perché mentre vedo alcune agenzie che riporto, così come leggo, che estremisti iracheni avrebbero occupato uno stabilimento che apparteneva a Saddam Hussein, dove si fabbricavano, secondo le agenzie, armi chimiche. Io ricordo che però le armi chimiche Saddam, ahimè, le usò nei confronti dei turchi, quelle che scatenarono la seconda guerra in Iraq non vennero mai trovate, però è chiaro che la situazione è sempre più complicata da un punto di vista anche militare, oltre che in primo luogo umano. Ma dicevo, immaginiamo la peggiore delle situazioni, l'Iraq versa nel caos e drasticamente si riduce l'esportazione di petrolio iracheno. Le conseguenze che vi potrebbero essere a livello dei prezzi del petrolio? Sissi Bellomo. Sì, per adesso l'export dall'Iraq non solo non è diminuito, ma ricordiamo che è ai massimi da 35 anni, ancora su livelli altissimi, oltre 2 milioni e mezzo di barili. Quello che può succedere effettivamente è che ci sia un disturbo magari alle infrastrutture per l'export, quasi tutto viene esportato da Bassora. A Bassora per il momento si dice che è tranquillo, è anche una zona particolarmente protetta del paese, anche una zona ben controllata dagli sciiti, quindi nell'immediato potrebbero non esserci problemi. Quello che trovo molto preoccupante è una destabilizzazione duratura, che sarebbe in questo caso anche peggiore di quella della Libia, e ricordiamoci che la Libia tuttora esporta pochissimo petrolio, quindi noi da anni ormai siamo senza la Libia o con la Libia piena di alti e bassi nelle sue esportazioni di petrolio. Potrebbe effettivamente, se la guerra civile si estende al sud del paese, sarebbe gravissimo, ci sarebbero interruzioni immediate e una impennata dei prezzi. Forse l'Agenzia Internazionale per l'Energia rilascerebbe delle scorte di emergenza, però questo avrebbe un effetto limitato nel placare i prezzi. La cosa brutta è se dura molto tempo questa situazione di destabilizzazione. Sì, brutta chiaramente in primo luogo per motivi umani e umanitari, ma anche in secondo soprattutto per motivi energetici. Tabarelli è d'accordo, cioè in questo momento le esportazioni irachene, essendo ai massimi degli ultimi decenni, non rappresentano un problema, mentre manca ancora l'appello alla Libia, quindi se uno dovesse andare a guardare le tensioni sul prezzo del petrolio, forse in questo momento sono più libiche, di matrice libica che non irachena. Sì, la Libia è un po', ripeto, quello del Kirkuk, perché da lì, da inizio marzo, non esce più petrolio, uscivano circa 300.000 barili al giorno. Una volta l'oleodotto, che adesso si sono detti i curdi disponibili a riaprire, viaggiava a 1,5 milioni. Problema sì, è soprattutto la Libia adesso, E anche Nigeria, dove la situazione è caotica. Nel medio termine c'è anche il Venezuela. Ripeto, l'OPEC doveva produrre molto di più già adesso, siamo a 30 milioni di barili al giorno. E per fortuna, come ricordava Sissi Dell'Omo, ci sono gli Stati Uniti che stanno producendo molto di più di quanto era atteso. Però è l'OPEC che ha le riserve, quasi il 70%, e ripeto, è il paese, è l'organizzazione che ha le riserve e i costi più bassi e anche la capacità produttiva, che adesso è concentrata in Arabia Saudita. Soltanto non siamo negli anni 70 che decidevano loro con le riunioni il prezzo del petrolio, certo. Però potrebbero influire molto. Però scusatemi, io ci capisco poco, ma insomma, guardando così a volo d'uccello quello che sta capitando, abbiamo tensioni fortissime tra l'Ucraina e la Russia, dove appunto la Russia blocca il gas per ora all'Ucraina se non viene pagato, però transita anche da lì. Dall'altra parte abbiamo la Libia, voi lo ricordavate, l'Iraq, il caso nigeriano, e ci mancherebbe, con anche alcuni rischi sul Venezuela. Ora, cioè, non è che superata l'estate ci attenda un autunno, inverno, quando iniziano i consumi di gas e petrolio in maniera consistente, drammatico? Cioè, a vederla così, uno sta tutto tranne che tranquillo. Tabarelli? Ma appunto l'inverno comincerà il problema ucraino, perché a differenza del passato... Sì, non è che mi sento meglio se me lo dice così, cioè, allora esiste, cioè, adesso è estate, ho capito, ma non è che possiamo ragionare pensando solo al fine settimana. Mi sembra che le tensioni iniziano ad essere un po' tante sul mondo dell'energia. Tantissime, per questo che del G20 l'Australia ha preso la palla al balzo e sta cominciando, vuole parlare, a presentare proprio il problema della gestione dell'energia a livello internazionale, che non neanche ci vuole l'Australia per capire che è una questione centrale, delicatissima. Per tranquillizzare direi una cosa, che anche i più scalmanati di questi islamici o di questi estremisti conoscono benissimo l'importanza del petrolio, perché da quello deriva poi il cash per comprare le armi, perciò si guardano bene dal distruggere, cosa che avveniva magari in passato, le infrastrutture petrolifere. Perciò chiunque va al potere sarà sempre dipendente dalle esportazioni del petrolio. Purtroppo dicevamo questo anche per la Libia. È quello stavo per dirglielo io, esatto. Invece in Libia non è successo. Sì, sì, Bell'Omo, è giusto tranquillizzare, non creare allarmismi. Basta non arrivare poi improvvisamente a ottobre-novembre con i notizioni come se ci fossimo svegliati improvvisamente. Prego. Io farei un paio d'osservazioni. La prima di carattere squisitamente finanziario e forse consolatorio e rassicurante: le scadenze lontane dei futures sul petrolio, quindi il petrolio per la fine dell'anno non si è impennato un granché. Bene. Quindi questo sembrerebbe dimostrare che quantomeno gli investitori finanziari chi opera sui mercati, che poi comunque danno il prezzo di riferimento, non si attende dei disastri nei prossimi mesi. Potrebbero sbagliarsi, ovviamente. L'altra osservazione è, come diceva giustamente Tabarelli, finalmente il mondo intero, ma in modo particolare l'Unione Europea, sta prendendo coscienza del fatto che sia veramente fondamentale avere un approccio coordinato ai temi dell'energia, ai temi della sicurezza energetica, e forse di fronte a queste emergenze sempre più frequenti, e sì, penso soprattutto a quella con l'Ucraina, forse qualche cosa si sta muovendo. Già adesso il sistema di distribuzione interno all'Europa del gas, per esempio, ci rende in grado di affrontare un'emergenza meglio che quando ci furono le guerre del gas del 2006 e del 2009, perché riusciamo a scambiare meglio il gas da un paese all'altro nei due sensi. Si faranno dei passi avanti ulteriori, spero, mi auguro, in termini di diversificazione e di coordinamento delle politiche. Questo vale anche per il petrolio, c'è una consapevolezza maggiore, ecco, se vogliamo trovare gli aspetti rassicuranti. Mi fido di voi, ci mancherebbe. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, e alla collega del Sole 24 Ore Sissi Bell'Omo. Focus Economia per oggi termina qui, domani ci risentiamo dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoli, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.